Siamo con Carla Benedetti, saggista, professoressa di letteratura italiana contemporanea all'Università di Pisa, coordinatrice del cantiere umanistico dell'Antropocene e autrice di Pasolini contro Calvino, che ai tempi della sua prima pubblicazione era un saggio che aveva suscitato molto dibattito. Cosa l'aveva spinta a comparare Pasolini e Calvino in primo luogo e perché la reazione al suo libro è stata così animata? È difficile immaginare due scrittori più distanti di Pasolini e Calvino quanto a soluzioni espressive, forme compositive. Parlo ovviamente della seconda parte della loro produzione, diciamo dopo gli anni 60, perché prima le loro strade erano molto vicine. Cioè, da una parte abbiamo uno scrittore lodato per la sua nitidezza classica, per questa scrittura leggera, illuminista, ironica, e dall'altra un autore tumultuoso, mosso da passioni, da una forza lirica, sentimentale, e soprattutto uno scrittore che rifiuta l'ironia. Attraverso l'ironia rientro nell'ordine, è una frase di Calvino, perché l'ironia implica anche un certo disincanto anche verso la letteratura, no? È come dire, scrivo però poi non ci credo fino in fondo, non è che attraverso questo mezzo io posso davvero riuscire a incidere nel mondo, no? Perché ormai in quegli anni, insomma, c'è questa consapevolezza che sono altri mezzi, ci sono i media di massa, la TV, il cinema ovviamente, e quindi la letteratura veniva anche un po' sentita come indebolita, marginale, no? Mentre Pasolini continua ad avere una fede incrollabile nella forza della poesia, dice che la poesia è una merce che non si consuma. Questa distanza tra i due scrittori ha però alle spalle una strada comune, perché entrambi agli inizi percorrono strade abbastanza vicine, oltre ad essere della stessa generazione, sono anche della stessa area politico-culturale, hanno una poetica improntata a un certo realismo, anche se un po' fiabesco in Calvino, un po' lirico in Pasolini, e poi anche improntata all'impegno civile, ecco. Ma poi negli anni 60 succede qualcosa, una vera e propria frattura epocale, il boom, l'Italia cambia e il mondo intero cambia. Ecco, a questo punto le loro strade si separano e vanno in due direzioni opposte, reagiscono in maniera diversissima a questa stessa crisi, si ritrovano su due pianeti diversi, ma occorre dire, questa è anche la ragione che ci permette di confrontarli e di rendere utile questo guardarli alla Plutarco, insomma, l'uno sullo sfondo dell'altro, è che questi due pianeti sono nati dalla stessa esplosione. Ora, lei diceva delle reazioni, c'è anche un'altra cosa che dopo gli anni 60 oppone i due scrittori, e il modo in cui sono stati accolti dalla cultura italiana, no? Quando pubblicai il libro Pasolini contro Calvino, Calvino era il nome tutelare di gran parte della cultura italiana, no? Aveva questa idea di letteratura che si accordava con quelli che erano dei modelli non solo letterari ma anche mentali, politici, antropologici. Aveva questa idea di letteratura, intendo quella filtrata attraverso i valori che Calvino stesso aveva fissato nelle lezioni americane, e rappresentava appunto un modello indiscusso e indiscutibile, tanto che qualcuno, diciamo, pubblicasse un libro dal titolo Pasolini contro Calvino suscitò, prima ancora che il libro uscisse, molto scalfore, vi furono reazioni avverse, anche scomposte, anche un po' strane, non si erano mai viste per un saggio di critica letteraria. Pasolini, da quella stessa cultura che aveva canonizzato quest'ultimo Calvino, era invece guardato con sospetto. A quell'epoca era ovviamente molto noto Pasolini, quasi quanto ora, era apprezzato per i film, era apprezzato per le analisi della società contemporanea, lo si conosceva per i suoi scandali, però lo scrittore, il poeta e il romanziere erano in molti a prendere le distanze, ci furono molti critici anche autorevoli che non consideravano neppure delle opere letterarie letteraria, la sua ultima produzione. Non si riusciva a capire le ragioni profonde di queste sue scelte poetiche, così diverse da quello che era il Galateo letterario, di cui appunto Calvino era l'emblema. Petrolio, la Divina Mimesis, Trasumanare Organizzare, sembravano degli agglomerati informi e quindi non apparivano come un modello plausibile all'altezza dei tempi, come io invece cercavo di dimostrare nel libro. Quindi aver indicato Pasolini come una possibile via alternativa a quella intrapresa da Calvino aggiungeva scandalo allo scandalo, al fatto di criticare quell'idea di letteratura rappresentata da Calvino, che era poi l'idea di letteratura egemone e che espelliva uno scrittore così, tra virgolette, impuro, no? Appariva impuro rispetto a quel Galateo estetico, a quel modello incarnato da Calvino, ecco. Tra l'altro lei citava prima i valori lasciati da Calvino per il nuovo millennio e nella nuova introduzione del 2022 per la riedizione di Pasolini contro Calvino lei scrive che quei valori lasciati da Calvino non sembrano aver retto all'urto delle esperienze degli anni 2000, soprattutto in ambito climatico e ambientale. Sì. È ancora possibile parlare di un'eredità di Calvino secondo lei e se sì in quali termini? Sì. Certo, è ancora possibile parlare di un'eredità di Calvino, ma non nella stessa maniera con cui la si vedeva alla fine degli anni 90. Questi valori, la leggerezza, la rapidità, eccetera, insomma, il nuovo millennio ci ha messo di fronte a problemi molto più tragici e ultimativi. Per la prima volta viviamo nel rischio di un'estinzione di specie e più che di ironia e di leggerezza si sente il bisogno di un mutamento drastico nel modo di rapportarci al mondo, al pianeta, no? Di smuovere una diversa sensibilità, di risvegliare energie addormentate, no? Per poter far fronte a questa emergenza che è ovviamente la più grande che si sia mai presentata all'uomo in tutta la storia dell'umanità. Quindi l'eredità di Calvino è da questo punto di vista importante, ma non, come dicevo, nella direzione delle elezioni americane, perché non c'è un solo tipo di eredità. Di solito per eredità letteraria si pensa alla ripresa di temi, di moduli, di impostazioni stilistiche tipiche di un autore, ma ce n'è un'altra forse ancora più importante ed è qui che Calvino ci ha lasciato qualcosa. Mi riferisco al fatto di aver indicato possibilità per la letteratura non ancora intraviste oppure che sono state pensate come non più accessibili per Calvino. A me pare che la sua eredità più forte, quella che oggi può essere rivalutata e che anche suscita di nuovo interesse anche tra i critici letterari, anche in ambito di ecocritica, cioè quella dell'immaginazione che osa spingersi oltre i confini dell'umano, no? La possibilità che appunto Calvino con le cosmicomiche e tutti i racconti delle cosmicomiche ha aperto di oltrepassare la dimensione antropocentrica che c'è abituale nelle narrazioni e i globali come materia di racconto anche l'evoluzione degli organismi, i protozoi, la vita delle cellule e poi c'è soprattutto questo aprirsi alle scoperte scientifiche del tempo che Calvino combina con le antiche storie naturali, con i miti cosmogonici, quindi anche trovando un aggancio molto forte nella nostra immaginazione. Ecco, questo Calvino secondo me ha compiuto un passo ardito che dobbiamo tenerci molto caro, molto stretto, questa secondo me è la sua eredità più importante, ha allargato il nostro orizzonte cognitivo in una cornice che contempla i tempi lunghissimi dell'evoluzione della vita sul pianeta, il tempo prima dell'uomo, insomma si è avventurato, come dicevo prima, oltre i confini dell'umano e anche percorrendo questi varchi che la scienza contemporanea ci ha aperto, il Calvino delle cosmicomiche, della giornata di uno scrutatore, di Marco Valdo, ecco, io credo sia questa la sua eredità, il fatto di aver pensato le storie raccontate sempre in rapporto anche a ciò, sono le parole sue queste, a ciò che esiste indipendentemente dall'uomo. se parliamo del 98, quando il libro uscì per la prima volta, certo questi erano sottovalutati dalla critica, erano come oscurati da quell'altra immagine stilizzata di Calvino, eretta non solo dalla critica ma in parte anche da Calvino stesso, perché ha contribuito molto a creare questa immagine di sé attraverso le prefazioni ai suoi libri, tutti gli autocommenti di cui è molto ricca la sua opera. Però in questo modo questa stilizzazione idealizzata ha anche un po' imbalsamato col Calvino, insomma, la sua opera, le parti anche più vive, più inquiete, più segrete sono state oscurate da quell'altra. Oltre a questi che ho già nominato, c'è anche un'inquietudine sotterranea in Calvino che io mettevo molto in evidenza nella prima edizione del libro, quella di un disagio nei confronti delle gabbie identitarie create dalla comunicazione letteraria tardo moderna, un disagio che in lui trapela molto indirettamente ma leggibile. Quest'anno, tra l'altro, lei ha anche fatto parte della giuria per l'assegnazione del premio Italo Calvino per scrittori esordienti, che è nato insomma un po' per celebrare l'attività di talent scout che Calvino faceva per Einaudi. Quali sono i temi più originali o in qualche modo affini tra loro che ha ritrovato nei libri candidati e cosa le sembra significhi, anche se mi rendo conto che è una domanda un po' ardita, cosa le sembra significhi esordire nella scrittura oggi? Dunque, quanto ai temi, i libri che sono stati selezionati ne avevano di vari, ma io credo che l'interesse e l'originalità di un libro non sia tanto in un tema, nel tema, ma nel modo come lo tratta, soprattutto il modo di percepire il mondo. Cambiare il modo di percepire il mondo è anche un modo, è un'opera di pensiero, insomma. E poi devo dire una cosa, che a me ha fatto molto piacere leggere queste prove di esordienti, perché l'esordio è una cosa davvero importante, qualcosa equivale ad una nascita, e devo dire in un occidente tardo moderno si è affermata un'idea di letteratura che non ha più grandi aspettative nei confronti dell'arte della parola, no? Perché la si considera o un intrattenimento o tutt'al più qualcosa che aumenta la nostra conoscenza della realtà che ce la rappresenti. Però se si considera ciò che è stata la letteratura nei secoli e nei millenni, vediamo qualcosa di molto più potente, no? Questo canale di comunicazione straordinario, perché attraverso la letteratura avviene un contatto profondo, intimo tra esseri umani, no? Anche quando sono lontani nello spazio e nel tempo, perché ancora oggi leggiamo Omero e ci arriva la vita di uomini di quasi 3.000 anni fa, quindi è uno strumento stupefacente che si è sviluppato nel corso dell'evoluzione umana e che nella lunga storia dell'umanità ha avuto un grande ruolo, ha trasportato sogni, emozioni, sentimenti, insomma con una forza specifica di prefigurazione, di rigenerazione. Ecco, tutto questo secondo me è un po' scomparso da quella maniera più diffusa di considerare la letteratura, però se è scomparso nei discorsi comuni, nelle teorie eccetera, non è scomparso negli scrittori. Gli scrittori ci credono ancora, altrimenti ecco, a volte mi dico, per questo ho avuto piacere anche di leggere questi esordi, chi glielo fa fare in un mondo dove il valore più importante sono i soldi, di abbracciare questa via antica che certo raramente porta alla ricchezza o al successo. È una cosa confortante e anche commovente. La ringrazio veramente moltissimo. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.